Ed ora stacco tutto, resto solo io. E questa melodia stasera è solo mia, non voglio compagnia. Da fuori c'è il diluvio che allaga la città. È meglio non uscire, fuori mi potrei bagnare. Non può piovere per sempre. Il mondo in questa stanza, muri di fantasia, solo ripenso a ciò che ho fatto, un sorriso ed un rimpianto. Il caos nella mia mente, tutto insieme a niente, un'oasi finalmente. Ma la sera tornerà, il buio illuminerà. Yeah.